Hola, pota, niño. Soy Gigi D'Agostino. Signore e signori, Gigi D'Agostino. Meraviglioso. Abbiamo effettuato il contatto. Grazie, vostra eccellenza, grazie. Sì, lo so, vi sono mancato. È che sono un po' ammalato. E mi è andata via la voce. Cioè, ce l'ho, ma... E va e viene. Dove vogliamo andare? Il numero per i vostri messaggi, le vostre dediche, i vostri pensieri e tutto quello che volete scrivere, potete mandarlo via SMS al seguente numero: 333-64-67-662. Questa è una frequenza con coscienza. M2O, mica una radio a capocchie. Mica una radio a capocchie. Lei mi sta tentando. Molto semplice. Che Sua Maestà ha espressamente vietato il balletto nel suo teatro? Sì, ma questo non è un balletto, è una danza. È una danza. Una danza. Non credo che Sua Maestà volesse vietare la danza quando fa parte della storia, Herr Direktor. Una gran parte della mia musica. Dicono che io devo riscrivere l'opera. Ma sei perfetta così com'è. Io non posso riscrivere una cosa perfetta. Ciao, sono Gigi D'Agostino. L'avevo già detto un po' di volte. Vabbè, però magari qualcuno si è connesso in questo istante e quindi io devo ricordare che qua ci sono io. Dei fenomeni. L'uomo sapiente non è né un indovino, né tantomeno un mago, ma usa il cervellino. Lui non crede negli oroscopi e tu adesso ascolta qua. Lui ama solamente la concreta verità. E come Aristotele crede che la natura ce ne mostra chiaramente il suo volto verde pura. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Dei fenomeni. L'uomo sapiente non è né un indovino, né tantomeno un mago, ma usa il cervellino. Lui non crede negli oroscopi e tu adesso ascolta qua. Lui ama solamente la concreta verità. E come Aristotele crede che la natura ce ne mostra chiaramente il suo volto perché cura. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Questo sabato, sabato sera alle ore 22, io suonerò alla discoteca centrale del latte, che non è una che non è un posto dove si mungono le mucche, ma nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Alla discoteca centrale del latte, che non è un posto dove si mungono le mucche, ma si balla con le parrucche. No, era per farla rima, no? Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Questo sabato, ore 22, discoteca centrale del latte, Cremona. Per ulteriori dettagli www.gigidagostino.com. Entra nel forum e poi là dentro c'è tutto. Non è che posso spiegare tutto adesso, adesso devo suonare. Perché a quest'ora qui ogni giorno si balla. Chi non si muove una palla. Ciao, sono Gigi D'Agostino. Lei è il più fulgido astro del firmamento musicale. Io ritengo che sia la migliore opera mai scritta fino ad oggi. C'è un tempo per il coraggio e un tempo per la cautela. Passami una mela. Ogni pomeriggio alle 6 M2O mica una radio a capocchie. Mozart, lei non è l'unico compositore qui a Vienna. No, ma sono il migliore. Volevi fare la ginnasta? La giornalista. Certo, e io che ho detto? Allora? Allora faccio la giornalista, lavoro al News. Grandioso. E stai con Joe? Sì. Beh, fantastico. Sul serio? Ci stai da quanto? 3 settimane? Un mese. Come lo sai? Se uno ti accompagna all'aeroporto, è chiaro che è all'inizio di una relazione. Ecco perché io non accompagno nessuno all'aeroporto all'inizio di una relazione. Perché? Perché alla fine le cose cambiano e tu non l'accompagni più all'aeroporto. E io non voglio sentirmi dire: come mai non mi accompagni più all'aeroporto?

Diventiamo grandi grazie ai sogni. Tutti i grandi uomini sono dei sognatori. Vedono le cose nella leggera foschia primaverile o nel fuoco rosso della sera di un lungo inverno. Alcuni di noi lasciano morire questi grandi sogni, ma altri li nutrono e li proteggono. Abbiatene cura nei giorni brutti, affinché portino il sole e la luce, che viene sempre a chi spera col cuore che i propri sogni si avverino. Woodrow Wilson. Non sapevo se potevo partire. Dai, dai. Sono Mauro da Rimini. Gigi, potresti mettere la canzone di Lo chiamavano Trinità? Certo. Grazie. E fai un saluto a due ragazzi stupendi, Ellis e Giuseppe. Ok. Ci sentiamo domani. Grazie.